Ingrid. Si guardò attorno, infilò le chiavi nella toppa ed emise un sospiro di sollievo nel constatare che giravano. Entrò nel portone ed esaminò la bacheca con i nomi degli inquilini. Giulia Wahlberg abitava all'ultimo piano, il quinto. Ingrid sospirò ancora. Non le piacevano gli ascensori, ma non poteva evitarlo, doveva sbrigarsi. E, d'altra parte, negli ultimi tempi era stata costretta a fare parecchie cose che non le piacevano. Entrò in ascensore e premette il pulsante. I guanti di Tommy le stavano larghi, ma doveva tenerli addosso. Se nell'appartamento di Giulia fossero state ritrovate delle fibre riconducibili a lei, o perfino dei suoi capelli, avrebbero potuto essere spiegate con l'infedeltà di suo marito. Ma questo, ovviamente, non valeva per eventuali impronte digitali. In un primo momento, la sua vendetta si era indirizzata solo verso Tommy, ma la rabbia che provava sembrava aumentare ogni giorno che passava, stimolando di pari passo anche la sua fantasia. Scese al piano giusto e verificò che non si sentisse nessuno. Si sarebbe concessa 5 minuti, non di più. Aprì delicatamente la fessura della posta e sbirciò dentro. Buio. Si raddrizzò. Aprì la porta ed entrò. L'odore estraneo le colpì le narici e la fece esitare per un secondo. Forse avrebbe fatto meglio ad andarsene e accontentarsi di quello che aspettava Tommy. Mentre si voltava per uscire, le cadde lo sguardo sull'attaccapanni dell'ingresso. C'era una delle giacche di suo marito. «Brutto stronzo», borbottò. Si inoltrò sul parquet che cigolava. Il soggiorno affacciava sul canale. Sulla sponda opposta si vedeva Lily e Holman. Alle pareti erano appese foto in bianco e nero. Marilyn Monroe sembrava essere il soggetto preferito di Giulia. La bionda sorrideva. La bionda fumava. La bionda guardava l'obiettivo con espressione sexy. «Che prevedibile», mormorò Ingrid. «Mi deludi, Giulia. Ti pensavo più interessante». Aprì la porta della camera. Un letto matrimoniale con una testata enorme. Subito fu sopraffatta dalle immagini di cosa dovevano farci lei e Tommy. Chiuse in fretta la porta e tornò in soggiorno. Doveva trovare un posto in cui Giulia non guardava spesso. Aprì il cassetto del mobile TV. Qualche vecchia rivista, un TV box, 2 album di foto. Ingrid resistette all'impulso di sfogliarli, ricordandosi cosa era venuta a fare. Il mobile TV poteva andare. Infilò una mano nella borsa e ne estrasse il sacchetto. 5 grammi di coca. L'aveva comprata su una darknet e se l'era fatta consegnare a casa in taxi. Infilò il sacchetto in fondo al mobile, sotto le riviste. Poi però cambiò idea e lo tirò fuori di nuovo. Cercò il bagno, entrò e vide 2 spazzolini sul lavabo. Li prese e li strofinò sul sacchetto. Non poteva lasciarci delle impronte, ma forse sarebbe bastata qualche traccia di DNA. Tanto Giulia era solo un extra. Poteva occuparsene dopo, una volta che Tommy fosse morto. Si girò, prese lo scopino del water e ci strofinò accuratamente sopra gli spazzolini. «Niente baci per un po', mio piccolo Tommy», disse rimettendo a posto gli spazzolini e tornando in soggiorno per poi rinfilare il sacchetto nel mobile TV. Quando entrò in metropolitana a Hornstull, mandò un messaggio a Tommy. «Guarda che ti sono cadute le chiavi in garage».